Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte prima, lezione 4. Baderech el Asulam, sulla via per la scala. Esistono tre cose: la luce, il Kli, cioè il destinatario, e tra loro ci sono gli ingrossamenti della luce, i mondi spirituali. Non puoi incorporare la luce direttamente egoistica in te, quindi devi riflettere prima questo, così tu impari a ricevere una misura scarsa e non a ricevere immediatamente ciò che vuoi. Masach, uno schermo, è una forza anti-egoistica che l'uomo colloca tra sé, la luce e i mondi spirituali. Solo a scansionare lo Zohar con i tuoi occhi non ti aiuterà, perché non fai alcuno sforzo. Se pensi che ti aiuterà anche un po', sappi che è da suggestione. Se qualcuno ti chiede di fare qualcosa e non devi fare alcuno sforzo, sappi che viene dal male, dalle cattive inclinazioni. Ogni cosa che è bene qualitativo, denso a perpetuità, che è la manifestazione del bene, è in ogni generazione rara. Perciò non camminare mai dietro la massa, perché nessun bene può venire da quello. In ogni generazione sono sempre i pochi che portano enormi sviluppi, e non la massa. Ciò che riguarda lo spirituale, lì la massa camminerà dietro l'individuo, ma riguardo le cose generali, alla vita sociale, eccetera, lì l'individuo deve adattarsi alla massa. Più ti avvicini al bene, più sforzi devi prevedere. Non ci sono altri miracoli, poi, per venire sempre più in profondità e ricevere sempre di più dal bene. Non è dato all'uomo per finire il suo cammino spirituale. Certo che può farlo, ma non gli è dato di vedere il risultato del suo lavoro spirituale. Perché? Devi lavorare costantemente a te stesso. Non è come nel nostro mondo che dovresti vedere il risultato. In Pirkei Avot, le scritture dei padri, è scritto che non è stato dato alle persone di finire il proprio lavoro. D'altra parte c'è anche il detto: non sei esentato da te stesso di astenerti. Com'è possibile questo? Questa è la logica divina, non è dal nostro mondo. C'è anche scritto: il Creatore lo finirà. Il finire non è per noi, ma devi produrre fiducia e credenza. È nell'intenzione che tu progredisca e non ricadi nelle tue vecchie situazioni. E la credenza, la fiducia, è vitale, perché ciò significa che tu produci man, preghiera. Non pensare che tu ritorni nello stesso posto. Di a te stesso: io confido, io ho fede. Senza fede non veniamo da nessuna parte. Avere fede significa produrre qualche sforzo, che si lascia dietro tracce di luce. Più fede, meno dubbi. Non voglio che questo diventi un sermone. Lo Zohar stesso darà istruzioni. Ricorda, scrivilo: di ogni cosa che noi stessi impariamo nello Zohar, e non nel commento che spiega Shoshana, Giglio, eccetera, dovremmo chiederci: dov'è questo sulla scala spirituale? Zohar parla del mondo Adam Kadmon, o riguarda il mondo Azilut? Quale Parzuf? Quale Sfirah? Riguarda la luce o il Kli? E non discutere le parole, come il Giglio stesso. L'autore dello Zohar, insieme a 9 dei suoi studenti e ad altri cabalisti, usa il linguaggio del nostro mondo, ma non intendono mai le proporzioni terrene. Parlano sempre riguardo alle radici spirituali, da dove provengono tutte le benedizioni. Quindi Azilut e altri mondi. essi parlano e non una parola riguarda il nostro mondo. All'inizio questo è molto difficile per le persone, così si va passo dopo passo. La religione ci dà anche l'immagine di un uomo che è Hashem. Questo è fatto per noi per renderlo più facile, ma non è così perché ogni cosa è assolutamente spirituale. Zohar parla a volte dei 7 pianeti del sistema solare come Giove, Marte o Venere, ma parla poi riguardo ai pianeti? No. Più tardi impareremo da dove viene la forza a quei pianeti. Per esempio, l'origine viene da Bria. Da Bria la luce va a questi pianeti, ma questi pianeti, la radice inferiore, è nel secondo firmamento di Asiya. Ma ogni cosa che c'è ancora è spirituale. I pianeti sono anche materiali. L'influenza dei pianeti è comunque lì, proprio come dicono gli astrologi, ma la volontà dell'uomo passa attraverso tutti i pianeti. Nessun pianeta può fermarlo. Le persone possono arrivare fino ad Azilut, ma i pianeti hanno la loro origine da qualche parte nella seconda parte di Bria, quindi ottengono le loro radiazioni, mentre le persone si estendono molto più in alto di tutti i pianeti, anche più in alto del Sole e della Luna. Anche il Sole riceve la sua forza, perché nel suo sé non ha nulla di spirituale, proprio come un essere umano. L'uomo è anche da se stesso una scatola nera. Quando la religione dice che Hashem è nelle persone, essi dicono bene, ma se l'uomo non si porta in conformità con lo spirituale, lui non ha nulla di spirituale in sé. Lo spirituale viene solo quando lui realizza che non vuole solo ricevere, ma vuole anche dare. Forse, dopo aver imparato 5 o più anni di Kabbalah, possiamo sperimentare che non possiamo assolutamente dare. Allora anche devi generare fiducia e credo che ulteriormente sei venuto più denso alla luce, anche se sai che non puoi dare. Nella Kabbalah non vieni direttamente nel Nirvana. Se la sveglia dell'orologio parte, anche il tuo ego diventa sveglio e si alza in piedi dritto con te. Quindi ricorda, ciò che dice Zohar è assolutamente spirituale. Solo le lunghezze d'onda sono diverse. Sebbene usato il linguaggio del nostro mondo, riguarda le radici spirituali. Non andare fuori strada nel loro uso del linguaggio. Chiediti costantemente di quale parte del processo di controllo riguarda. Zohar parla solo del processo di controllo, la forza di controllo nell'universo. È una logica favolosa, ma richiede dedizione assoluta. Neanche visualizzare, non pensare che anche passando rapidamente tutte le pagine andremmo oltre. Non sperimenterai nulla, non prenderesti nulla. Nessuno di noi è pronto ad andare rapidamente più di quello che stiamo facendo ora. E dovrebbe essere comunque significativo. Anche da me faccio qualcosa di 6 pagine al giorno e a volte faccio un giorno intero riguardante un paragrafo e con la prossima lettura di Zohar posso combattere forse per una settimana con me stesso per ottenere un po' di devozione così che io possa ricevere da esso. Il grande Ari a volte poteva combattere per una settimana con una sola strofa, giorno e notte imparando una strofa e non arrivarci. Forse continuiamo nel corso completo di 5 o 10 pagine, non importa. Il risultato è la nostra fede, credenza, esperienza degli aumenti spirituali, che è ciò che conta. Ogni cosa deve crescere. Pagina 2, Bet, il secondo carattere dell'alfabeto, posto in alto a destra dell'angolo della pagina. Prima colonna, primo paragrafo. e ci sono in questo giglio due situazioni. Situazione di Katnut, piccola situazione, quando sono meno di 10 sefirot, sono sperimentati. Questo significa l'inizio della sua piena crescita, la Shoshana. Abbiamo detto che lo Zohar significa con il giglio Nukva, Malkut del mondo di Azilut, che poi, nella situazione della sua Katnut, in lei non è più di una sfira, Keter, che dentro di lei è incorporata la luce Nefesh. Nella lezione precedente abbiamo visto il principio dei due cilindri, luce e Kelim, che se un Kli ha solo un piccolo compartimento, solo Keter, esiste sempre cinque ma c'è solo l'esperienza di uno, Keter, quando sono sperimentati due è Keter e Kokma. Quindi viene nella luce più bassa, Nefesh. C'è una dipendenza invertita tra luci e Kelim. Il Kelim, il più alto, viene riempito per primo e la luce inferiore entra per prima, finché tutte le luci entrano nel Kli, perché poi ogni cosa è posta in ordine. Un Kli ha quindi cinque compartimenti e prima che quelle cinque luci possano entrare non c'è accordo tra le luci e i Kelim, dentro i Kelim sono le porte dei sensi, presto lo capiremo. Quando un uomo a un certo grado in due scomparti può riflettere la luce, due luci entrano, vale a dire che può sperimentare già due luci. Questa va in questo modo ulteriormente fino a che lui non può sperimentare tutti e cinque gli scompartimenti. Quindi, nella piccola situazione, la Malkut di Azilut ha solo una sfira, Keter, e in questo c'è una luce, Nefesh. Pertanto, nel Kli siede la luce. Che cos'è il Kli? Qualcosa di materiale? No, in assoluto. In qualcosa che non è materiale c'è qualcosa di più alto, di più sottile. Kli, che in una certa condizione è Kli, può rispetto all'inferiore servire come luce. Capisci? Non è bianco e nero. Il Kli superiore rispetto al Kli inferiore è quindi leggero, perché è una forma più leggera di luce. Con Kelim intendiamo sempre una grossolanità della luce, non intendiamo mai la materia. Ti abituerai a ciò, centimetro per centimetro diventerà chiaro. Più alto è più fine, più basso è più duro. Forza superiore entra nella forza inferiore. I Kelim sono quindi anche forme di luce. Luce è Yesh Mi Yesh, l'esistenza dall'esistente, e i nostri Kelim sono Yesh Mi Ain, l'esistente dal nulla, qualcosa che è venuto dal nulla. Ciò significa che la creazione è qualcosa che non esisteva e nella realtà è stata creata, e che è chiamata dal nulla. Prima c'era solo la luce con la qualità di dare. E poi la creazione è stata creata con la qualità di ricevere, una qualità che prima non esisteva. E per questo motivo è chiamata Mi'ain Yesh, l'esistente dal nulla. E le nove sefirot inferiori di lei sono considerate come essere cadute fuori da Azilut. Spiegazione. Abbiamo già parlato un po' di questo l'ultima volta. Si potrebbe dire che in Azilut sono solo forze pure. Alla creazione del mondo è stato in questo modo che la forza Malkut aveva una sfira in sé e nove erano cadute nel mondo inferiore Bria. Il creatore ha creato il mondo in modo tale che ci sarebbe stata interazione tra lui e noi. Lui stesso, ogni cosa fino ad Azilut incluso, è stato costruito dalla luce. L'uomo deve fare qualche sforzo per attirare quelle nove sefirot su in alto. Questo è il nostro compito. Questo è il modo in cui il Creatore ha creato il mondo. Con la nostra preghiera, l'adempimento dei regolamenti, che noi con quello, Zohar ci dirà come funzionano questi strumenti. Non c'è equivalente in ciò che impareremo. È con il nostro fare che quelle 9 sefirot lentamente si costruiranno per l'intera creazione. Asiya Yetzirah Briah, e arriva di nuovo in Atzilut, e poi verrà la forza del Messia. In Atzilut rimane quindi una sfira, Keter, intatto, e 9 sfirot sono caduti in Briah. Sono caduti significa che non è sperimentato in Atzilut. E sono nel mondo Briah. Ci sono le stesse leggi, ma ci sono più forze impure. L'intenzione è per tutti i punti di forza nei 6.000 anni di esistenza del mondo, per portarli su nel mondo Atzilut. Quella è l'intenzione della creazione. E accanto a lei c'è una situazione di Gadlut. Gadlut viene da Gadol, che significa grande, una grande situazione. Piccolo quando posso stare sotto il tavolo e grande è come posso sedermi al tavolo. Che poi ascendono 9 sfirot inferiori da lei, fuori dal mondo Briah, al mondo Atzilut. Per noi è importante sapere che le 9 sefirot più basse erano, al momento della creazione, sotto di lei nel mondo Briah. La grande situazione è che le sfirot inferiori ascendono ad Atzilut e con quello lei ottiene 10 sfirot piene e lei è un adulto. E lei, Shoshana, è costruita da loro. Il fondo 9 sfirot ha un perfetto parzuf di 10 sfirot. Un parzuf è un oggetto spirituale che ha 10 sfirot in sé. Shalem significa perfetto e intero. Shalom significa pace e viene dalla parola shalem, intero, completo. Non si può raggiungere la pace prima di diventare completo, intero. La pace, nella nostra comprensione terrena, è la mancanza di guerra, ma non è questa pace. Nella parola ebraica troviamo l'essenza della parola. Pace non significa colpire con il fuoco o lasciarci gestire bene l'uno con l'altro. Non ci mangiamo l'uno con l'altro, ma ci tolleriamo l'un l'altro. La tolleranza non è pace, ma è comunque la via per la pace. Ma non è pace. Pace è amore. L'amore è quando siamo in completo accordo con le leggi dell'universo. Quando noi, rispetto a qualcosa, sperimentiamo 10 sfirot, allora è amore, allora non c'è posto per le forze impure. Perciò, nella grande situazione, lui dice, lei è stata costruita con 9 sfirot nel mondo a 10 sfirot, un parzuf completo, e poi è chiamato Shalem. L'intenzione del nostro studio è che sperimentiamo ogni giorno un po' di Shalem e Shalom. Non dovresti andare a dormire prima di diventare un po' Shalem. Non andare a dormire quando sei arrabbiato o che vuoi sbucciare una mela con i punti di forza che creano. Chiedi, desidera finché non senti Shalem per questo giorno e non per il domani, oggi. E in questo modo lo costruirai in te stesso, che tu desideri ogni momento di Shalem. Vedrai che Shalom, pace, è solo in te e non il vicino o qualcun altro che ti colpisce. E se senti pace prima che vai a dormire, sperimenti dunque in quel momento 10 sfirot. In quel momento porti te stesso in conformità con l'universo. È sempre un momento nel tempo presente. Finché non raggiungi il punto, lavorando a te stesso, che è costantemente Shalem. Dobbiamo sempre lavorare per noi stessi, ma viene un momento in cui il Creatore, per così dire, lo finisce, che sentiamo permanentemente amore e fede. E poi lei ascende con Zeyrampin, il suo uomo, ad un grado uguale con Avi'i di Azilut, Abba Kochma e Ima Binà del sistema di controllo dell'universo. E lei li tiene. Quindi Malkut e Zeyrampin ascendono ad Abba Ima Avi e li contengono. Poi vedremo cosa significa lei li contiene. E allora Zeyrampin è chiamato con il nome Israel, che lui, Israel, esiste dai caratteri. Quelle formano due parole, Lie Rosh. Israel consiste di queste due parole, Li Ame e Rosh Testa. Esse sono Ame Testa. La forza Israel, Zeyrampin e Nukva, come sistema di controllo e come una testa della creazione completa. Cosa significa tutto questo lo vedremo. E la Nukva. Nukva è un'altra parola per Malkut, l'aspetto femminile. Nella lingua ebraica è Negevah, femmina. In questa parola vediamo anche la radice della parola Negev, che significa buco. Lei ha un'apertura in se stessa, e attraverso questa apertura la luce va ai mondi inferiori. Nella lingua ebraica ogni parola è piena di significato originale per i punti di forza. Così abbiamo detto che Zeyrampin, nella sua piena condizione, è chiamato Israel. È chiamato Knesset Israel, la raccolta di Israel. La Nukva ora ha Sfirot in se stessa e quindi è chiamata la raccolta di Israel. A causa del fatto che lei raccoglie dentro di sé tutte le luci di Israel. Zeyrampin, il suo uomo, la forza da cui lei riceve la luce, che lei trasmette la luce all'inferiore, creature, a noi, all'inferiore, al mondo Bria, Yetzira, Asia e tutte le rimanenti creature. Abbiamo qui moltissime informazioni. In linea di principio anche qui si siede la Kabbalah completa. Devi vederlo in questo modo. La forza della Kabbalah, la forza della creazione, non sta nelle pagine, ma in ogni pace, in ogni piccolo dettaglio. Se andiamo attraverso un dettaglio molto bene, allora abbiamo raggiunto l'obiettivo. Non dobbiamo mangiare un pane intero per sapere che sapore ha il pane. E lo stesso è qui, ci sono tanti dettagli qui. Lo guarderemo ora in una prospettiva a volo d'uccello e allo stesso tempo darò qualche spiegazione. Sulla scala spirituale, nel sistema operativo dell'universo, si intende Shoshana, Giglio Malkut. Quando Malkut non ha ancora raggiunto lo Shalem, non è ancora completa o intera, allora la chiamiamo Nukva. La situazione di Katnut è se c'è qualcosa che manca, quindi anche alla Nukva di Azilut. Durante la sua piena crescita, alla creazione del mondo, aveva solo una Sfirah, Keter. Solo Keter poteva ricevere, ogni cosa era in Azilut, poteva ricevere la luce per sé. Cosa c'è sotto il mondo di Azilut? C'è una perdita enorme di forza di ciò che si riceve. Per quanto riguarda Azilut, Bria è solo una frazione di luce. Mosè, o in ebraico Moshe, viene da qualche parte in Bria. All'inizio non ti devi meravigliare, perché chiediti cosa e come. Che cosa stiamo imparando e in che modo è questo costruire o come avviene. In questo modo imparerai molto. Domande a cui non si risponde ancora sono il tuo tesoro, casa. Non desiderare immediatamente una risposta. Lascia quelle domande sobbollire in te. Ottieni il desiderio e quel desiderio rifletterà la luce in te e dai tuoi stessi sforzi sperimenterai, verrai ad una esplosione di comprensione. E nuove domande sorgeranno e tu pensi, oh caro, e di nuovo c'è luce perché da sopra stesso non vogliono stancarci. vogliono darci ogni cosa, ma dobbiamo essere pronti. La Kabbalah non è complicata, devi essere aperto per essa e ogni cosa si apre per te. Studiando i libri tradotti di Kabbalah può essere che diventi un professore, ma non otterrai una sola goccia di luce. Questi autori non sono cabalisti, ma sanno molto, ma sapendo non vengono all'esperienza dello spirituale. Quindi lei aveva solo una sfira, Keter, la luce è sempre nel Kli. La luce, ciò che è vita, verrà continuamente, ulteriormente. Il Kli è un confine, un grossolano. Il Kli fa limiti perché non ha ancora la forza di ricevere. Se ricevi senza avere un Kli, starai dopo come con una sbornia. Puoi confrontare questo con quando si torna da una bella vacanza. Hai avuto un tempo meraviglioso, potete fare tutto ciò che i vostri cuori desiderano fare e poi ritorni e si ha bisogno di uno strizzacervelli perché hai ricevuto di più dei punti di forza che avevi. Hai ricevuto in modo egoistico. Attraverso il suono della frusta, l'uomo impara a padroneggiare se stesso nel nostro mondo. L'uomo deve imparare a limitarsi perché questa è una proiezione del superiore. Il superiore ci darà piacere. Lui entrerà in te. È più facile non bere che fermarsi dopo un paio di drink, perché sei già indebolito ed è più facile per te continuare. Per questo motivo ci sono alcuni che dicono di non bere finché non hanno la forza di fermarsi dopo due o tre drink e poi sono liberi e felici, ma la maggior parte delle volte le persone non possono farlo. Non lottare perché poi la luce farà solchi, preme su di te e tu non hai più la forza per resistergli. La luce vuole entrare ancora e ancora. Sei tu che fai delle restrizioni. E se non puoi più sopportarlo, dici, smetto di osservare la luce. Prima lascia entrare la luce, il piacere, e ti diverte, perché non sapevi in anticipo che ti avrebbe procurato una sbornia, perché non hai ancora la forza di sopportare di più, e lo lasci fluire via. Tu non vuoi di più, e quello è il motivo che tu non lo sperimenti di più. Non attaccare alcun valore ai disegni, perché nello spirituale non esistono disegni. Anch'io farò sempre meno disegni. Nel corso precedente ne ho fatti molti e forse farò solo alcuni perfezionamenti. Tutto deve venire dall'interno. Devi essere paziente. Avendo la pazienza, quando non senti nulla, significa che tuttavia senti qualcosa, solo che non lo sperimenti ancora. Ogni settimana facciamo progressi, tutti noi. Certamente, le scintille divine e ogni volta diverse le tiriamo dal basso all'alto. Anche se senti una perdita totale, allora devi continuare, perché ogni volta che continui, supererai. Quindi le 9 sfirot della Malkut sono pertanto considerate cadute giù, considerato perché nulla cade giù e nulla rimane sopra. Nessuna luce si muove, fin dalla creazione ogni cosa è in assoluta serenità e immobilità. Noi sulla terra ci stiamo muovendo, l'intero sistema di controllo è immobile e allo stesso tempo dinamico. Come è possibile? Devi vederlo in questo modo. Guarda una sega elettrica. Quando la sega sta girando sempre di più, non puoi vederla muovere, vero? Quanto più è nel mondo spirituale, si ha una tale frequenza così alta che non sembra ci sia differenza tra movimento o non movimento. Tutti i mondi sono in se stessi in assoluto silenzio. Non c'è spostamento. Nel testo è scritto come caduto in Bria. Non sopporta che lei è caduta perché c'è solo perfezione, ogni cosa è Shalem. sperimenteremo anche più e più Shalem in noi stessi. E quando lo Zohar ci solleverà, vedremo che non ci sono più nemici, solo le tue proprie cattive inclinazioni di esperienza come un nemico. Presto dovrò incorporare la mia cattiva inclinazione anche nell'alto livello e poi mi servirà. Non maledire mai il male in te stesso. In ebraico diciamo maledizione e non dannazione. Sappi che pronunciando già attrai le forze negative, apri cancelli alle forze impure. Anche la parola diavolo, ad esempio, non devi pronunciarla. A volte uso queste parole perché sono necessarie per la lezione, ma dentro di me chiudo un cancello in modo che non mi danneggi. Ogni cosa è creata l'una apposta all'altro. Ci sono due punti di forza, e quello è funzionale, tutto è funzionale, ma non devi attirarlo con cose brutte. Quindi non maledire, non sgridare, imparando la Kabbalah scomparirà, non sai più come pronunciarli. Come caduto è solo per quanto riguarda il posizionamento, per quanto riguarda la percezione, solo che Ter era sperimentato all'inizio, nella piccola situazione. Gli altri 9 Sfirot non erano ancora sperimentati. Caddero fuori da Zilut a Briah e divenne una situazione di Gadlut. I 9 Sfirot di Briah scendono ad Azilut e tutto in Azilut raggiunge la sua perfezione. Più avanti vedremo che anche negli altri mondi è una forma di perfezione. Sforzarsi ogni giorno per la perfezione. Non andare a dormire se sei arrabbiato con qualcosa o qualcuno, perché altrimenti non hai compiuto il tuo giorno lavorando allo spirituale e ciò che hai fatto è stato inutile per te. Se preghi mentre sei arrabbiato, ti siedi con la tua preghiera nel nostro mondo e nulla scende. La preghiera è un atteggiamento interiore, deve produrre uno sforzo interiore per venire in Shalem, per diventare intero, completo. Riguarda solo questo momento, ora non sono integro, e non riguarda dopo. Se non ti senti Shalem, ti siedi in Katnut, una piccola condizione. Tu non senti 10 Sfirot. Devi considerare le Sfirot che non sperimenti come se sono cadute. Se chiedi da dentro e desideri Shalem, ma rimani arrabbiato con chi o qualunque cosa, la tua preghiera non andrà da nessuna parte. Non è una preghiera, ma chiacchierare. Quando sei arrabbiato devi continuare finché non diventi integro, finché non ottieni Shalem al tuo livello naturalmente, perché lavori sempre su te stesso. Quando sei ancora arrabbiato pronunci solo parole e nessuna preghiera. La tua preghiera non ascende. Ascendere significa che si ottiene un grado superiore di unità, si sperimenta più Sfirot. Come si può testare questo? Se sei arrabbiato e riesci a superare la tua preghiera senza dubbi, allora hai una risposta. Quando sperimenti solo una sfirà, significa che non hai ancora la forza di attraversarlo, purificare e lasciare ascendere gli altri. Così è assolutamente per noi e questa è la meraviglia più magnifica. È solo grazie a noi per ottenere integrità, perfezione e per nessun altro. È favoloso, da dentro devi fare sforzi. Più Sfirot tiri su, più Shalem tu senti. La notte scorsa mi stesi nel letto e fuori c'era una festa con la musica così forte che le orecchie fisiche, mi facevano male. Le mie orecchie hanno avuto problemi con i decibel, perché i decibel non sono spirituali. In un momento tale devi dire Gamzetov. Questo è anche buono. Vedrai dal tuo atteggiamento la musica non ti disturberà più. Raggiungi quel punto in te stesso dove vive solo l'Eterno. Naturalmente il tuo esterno ti disturberà, ma l'interiore no, e tu cadi nel sonno. che tipo di musica sarà o se hai una multa o qualsiasi altra cosa, lo sopporti con gioia. Dici a te stesso, Gamzetov, questo è anche buono. Anche se succede qualcosa che sembra male ai tuoi occhi, dire Gamzetov. Più tardi non lo dire, ma sperimenta. È solo cattivo nella tua percezione. Cosa c'è di sbagliato se succede qualcosa e non ti piace? Devi trovare tutto piacevole. Naturalmente non dovresti andare in alcuni luoghi dove puoi trovare problemi, ma se qualcosa avviene sul tuo sentiero, dice ulteriormente, la nukva ascende a causa della correzione, la perfezione. Se ti senti elevato per qualche motivo terreno, è che tu ti sei sollevato. È lo stesso nello spirituale. Possiamo imparare ogni cosa. Ciò che Mosè, Moshe e tutti gli altri grandi profeti hanno fatto attraverso la loro devozione unica, possiamo anche sperimentarlo con meno sforzo. Perché? Perché è già stato, esiste già, quindi non dire non mi è stato dato. Riguarda il grado del tuo desiderio e devozione al tuo raggiungimento, e cioè quando fai bene al Creatore. Nukva, le 9 Sfirot da Bria ascendono così ad Azilut, allora ne ha 10 e successivamente ascende con Zerampin ad Abba e Ima e contengono Avi-I, Abba e Ima. Zerampin è allora chiamato Israel, le parole Li-Rosh. A destra sul disegno è disegnato come una linea verticale perché è più abile, ma è come nell'immagine a sinistra del disegno 4. Il superiore è sempre dentro l'inferiore. Ari Kampin è quindi contenuto da Abba e Ima. Contenere è come un paralume. Nel nostro mondo è impossibile sperimentare la luce senza un paralume. Prima c'era Ein Sof, la luce, e da lì è venuto un raggio, e là divenne sempre più grossolano. Possessi, paralumi fatti al punto in cui l'essere umano potrebbe essere creato. In questo modo non vediamo nulla del Creatore, ed è stato necessario che siamo così lontani. Ci sono così tanti occultamenti che non sperimentiamo nulla. Vi sono... tra il nostro corpo e Ein Sof così tante luci sfumate. La luce non può brillare attraverso. Sentiamo se siamo una scatola nera. E dall'esperienza come una scatola nera dobbiamo fare uno sforzo che a poco scompare l'occultamento. Prima sperimentiamo il più esterno occultamento e poi scompare. Allora siamo in grado di vedere la luce con un paralume in meno. Disegno 4, immagine destra. AA, AVI, ZA, Zerampin. Prima sfira, Keter da Nukva in Azilut e 9 Sfirot in Bria. Questa è la situazione del giglio nella piccola condizione di cui parla lo Zohar. Possiamo avere un'immagine quando dicono che 9 Sfirot sono caduti giù. Ma ci dà poco sentimento per lo spirituale. Quando dice che una sfirà rimane sopra e 9 sono giù, e quello è il giglio. Lo Zohar vuole impartire un sentimento in noi. Quando le 9 sfirot sono ascese in Azilut, allora è sopra le acque. L'acqua può anche essere fangosa con alghe e piante, e poi una splendida ninfea. Se sorge un giglio, allora vedi prima il bocciolo, la corona, e quello è Keter. I 9 splendidi compartimenti sono ancora sotto per il momento, essi verranno sopra l'acqua. Accanto al giglio dobbiamo capire come questo sia sull'albero della vita, sulla scala. Quello che stiamo imparando è l'albero della vita e nient'altro. Fino all'arrivo del Messia non cambierà nulla, è creato per sempre. La politica e le altre cose cambieranno, ma non questo. Questo è per sempre. Nukva sperimenta quindi solo un compartimento, Sfira Keter, perché ogni cosa in Azilut ha luce e ogni cosa che è sotto è come sotto l'acqua. Certamente c'è vita sotto l'acqua che vive in modo diverso, quindi anche qui. Sulam ci dice che è una piccola condizione, Katnut. Questo deriva dalla parola Katan, piccolo. Piccolo significa che non ci sono le esperienze di 10 Sfirot. Gadlut significa grande condizione. Questo deriva dalla parola Gadol, grande. Nukva ha costruito 10 Sfirot e le chiamiamo Malkut, regno o K.I. Knesset Israel. Zohar ci sta dicendo che lei ha passato ogni cosa attraverso il suo uomo Zeirampin. Lui dà a lei ogni cosa che ha, perché deve darle tutto per lasciarla venire nella grande condizione, poiché poi lui può fare un perfetto zivug, fondendosi. Nel nostro mondo è lo stesso, quando un uomo arriva a un certo livello cerca una donna allo stesso livello, non sempre, ma deve avere una donna che è nello stesso modo, così anche a Zeirampin. Nukva scende e lei diventa 10 Sfirot, quindi è allo stesso livello di Zeirampin ed entrambi contengono Avi, Abba e Ima in Azilut. Contenere significa, per esempio, io vengo a un certo livello nella mia comprensione, comprendo un certo grado, vengo allo stesso livello anche se è un millesimo di una parte. Per quella piccola parte ora sperimento il grado più alto, ricevo un nuovo paralume perché ora contengo una nuova situazione. Ti metti come un embrione nella pancia di quel grado più alto senza fare calcoli. Difficilmente capisci qualcosa del nuovo grado, le nuove qualità, perché appartengono a un livello superiore e sei in qualche modo un ospite. Devi orientarti da te come un gattino cieco. In realtà sei ancora nell'oscurità finché non arrivi al grado superiore e hai trovato la forza. Quindi c'è prima la situazione di Katnut e poi Gadlut. E conosci il grado superiore, il tuo creatore. La nuova situazione è più alta di me. Zeirampin è più grande di Malkut, perché lei è solo una sfira e Zeirampin ne ha 6. Insieme contengono Avi, Abba e Ima. Entrambi ascendono e lo contengono. La luce dentro di loro è la luce di Avi. In quel momento e non per sempre essi sono in Gadlut. Questo è ciò che Asulam vuole dirci. Se è Gadlut, questo significa che Zeirampin e Malkut, per così dire, sono a un livello, al livello di Avi, e si contengono Avi. Certo, dentro c'è struttura, Zeirampin contiene Abba, perché ogni cosa corrisponde alla qualità ed entrambi sono maschili. Abba ha anche la sua propria struttura, Nukva contiene Ima ed entrambe sono femminili. Contenere significa comprendere. Gadlut è sempre temporaneamente, non possiamo rimanere in Gadlut. Naturalmente ci piace questa situazione, ma lì rimangono altri aspetti in cui abbiamo una mancanza. Possiamo ricevere per una certa condizione 10 Sfirot quando abbiamo comprensione. Poi riceviamo dalla luce cose nuove, più alte cose che non comprendiamo, da sopra sempre, nuovi aspetti vengono. Quindi dopo Gadlut otteniamo di nuovo Katnut, Katnut al grado più alto, come un adolescente che dice che ha trovato l'amore della sua vita e più tardi ha trovato un altro vero amore perché lui ha raggiunto una nuova comprensione. Non tenerti stretto a certe idee, tienti stretto a nulla eccetto la tua dedizione all'esperienza per lo spirituale, e non pensare ad altro, perché se pensi, quella è la verità e tu arrivi in una nuova esperienza e vieni in altre osservazioni, allora, per così dire, cadi giù. Vieni come se fosse su una nuova rotta e sperimenti quello che non hai sperimentato prima e che ti dà la sensazione di cadere giù. Sono abituato a quel sentimento di cadere. Ho questo tutto il giorno e continuamente dico Gamzetov, anche questo è buono. Cerca di trovare l'intenzione dall'interno, quello che significano veramente le parole che pronunci. Voglio sempre essere Shalem. Non addormentarti prima che sei intero, Shalem. Lavora per diventare Shalem. Ricorda questo.